dispiace, l'altro mi hanno detto che non venivano. Ci speri sempre. Ma non è no, vero. Sto cessando, vabbè. Nessuno sì, è la oh, tua oh, festa. Fermi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Certo c'è la legge, la musica si riparte. E bentornati, incredibile l'emozione indescrivibile nel riprendere la voce in questo sabato 14 gennaio del nuovo anno 2023. Auguri di buon anno alla redazione, fatevi sentire, vi prego, non era vero, non era vero. Auguri! E con ordine facciamo gli auguri, auguri, benvenuta, buongiorno, benvenuta, come dice la Gabri Gruppi, a Betta, la mia destra, la console. Buonasera, piccoli nerd! E alla mia sinistra proseguiamo con la Virginia. Ma auguri, mi hai richiamata là. Ho ricominciato questa cosa degli articoli perché anno nuovo, vita nuova. Aia. E quindi c'è la giornalista Gabri Gruppi. Eh sì, buonasera, benvenute care radioascoltatrici, cari radioascoltatori. E sentiamo il punto di Paolo Pagliaro. Prosegue il treno dei saluti con la professoressa Viola. Buonasera a tutti, auguri. Ciao, incredibile, bimbi. E di retrovia, ma ormai sempre più radicato, Franci. Buonasera, buonasera a tutti, auguri, auguri. The Beautiful Mind, ma The Beautiful Mind number two o number one, anche lui qua quest'oggi non ha il microfono, non ha la cuffia, però voglio dire, non mi si può. Mi stanno censurando, questa non è una radio libera. Non è Guido. Non auguri. È Guido, bensì Giorgino, incredibile, anche Giorgi è dei nostri quest'oggi, quanti siamo? Sette, quindi. E il soppalco trema, e il soppalco trema in questa puntata numero 42. Cominciate a prendere nota dei numeri che dico, perché esatto, da questa puntata esce fuori un bel Enalotto per chi vuole, e in generale comunque daremo svariati numeri, come si confa, ai inizi di anni. Cioè quei rituali dell'inizismo, dell'annismo, che di cui noi siamo professionisti. Maestri. Insomma, che le cose che si fanno, i passaggi di consegna dal 2022 al 2023 sono tanti, e per fortuna noi abbiamo anche Franci, appunto, il nostro nuovo Master of Numbers, che nel momento in cui vi doveste sentire, ho detto bene il congiuntivo, male dal punto di vista dell'overload di numeri, date, ricorrenze, ci sarà Franci a mettere chiarezza come sempre. L'unica cosa, appunto, prendete sempre carta e penna, soprattutto ascoltate, a dire correttamente numero, è una cosa esatto, questo è l'impegno del 2023 del maestro Franci, esatto. È dire numero invece che numero, ma questo è perché per lui sono importanti. Esatto. Che è successo? Wow. Niente, la giornalista Gabri Gruppi segnala dei guasti alla cuffia, e avessimo un tecnico che non sta facendo altro, si risolverebbe anche tutto, ma invece no, invece no. Cuffia. E allora comunque, a proposito di numeri, io non posso che mettere questo pezzo che forse ho già messo, ma va. Up. 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42, 3 per 8, 48, 6 per 9, 29, 3 per 3, 33, i numeri, non li sopporto più, la matematica, che mi perseguita, quanto mi dai, dimmi quanto mi darai, a che ora arriverai, scusa dimmi che ora fai, quanti fare per andare verso la libertà, chissà poi dove sarà, o forse qua, anche chissà che è proprio qua, 25, 35, 25, 35, 23, non siamo numeri, ma siamo liberi, non siamo... E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 5:10 di questo incredibile sabato 14 gennaio in cui ci ritroviamo dopo tanto tempo, ma ho fatto i vaghi, però in effetti bisogna dire che non siamo stati proprio costanti. L'ultima volta che ci siamo lasciati nella puntata 41 sembrava quasi che ci dovessimo rivedere dopo due settimane, invece no. E invece stiamo diventando preziosi come le gemme dell'infinito, e quindi le nostre puntate sempre più rare le trovate grande in attesa, podcast. Grande puntata. Cioè. Così come trovate in podcast la rubrica che sta per cominciare tra... breve perché mo vedo che l'interessata sta smanettando la cuffia, quindi probabilmente c'è un problema, c'è un disservizio, ma adesso è finito tutto. Parte da 92 metri Giorgino, sì, a riparare. Giorgino proprio imperturbabile oggi nonostante tutto, ecco, sta arrivando, sento tremare il terzo palco, ma è tutto risolto. Adesso sta per partire una incredibile rubrica che solo Virgi può descrivere meglio di me. La posso descrivere così: siamo entrati nell'anno nuovo, ma ci piace sempre la roba vecchia, quindi noi parliamo della rubrica all'epoca. Scusa, ti sentivamo poco comunque. Ah, allora era il microfono, era non era tutta colpa nostra, non te devi preoccupare. Bravi. Io però prendo il tempo per trovare quella che si dice quella essere... Quella che si chiama sigla! Era una nuova diavoleria moderna. All'epoca a Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Oh, e direi di parlare un po' dei grandi anniversari che cadono quest'anno, andando a scalare una classifica immaginaria che serve solo a farci sentire passetto passetto un po' più vecchi. Quest'anno, come potete ascoltare, compie 70 anni il brano più italiano dopo Il Blu dipinto di blu e O Sole Mio, That's Amore di Dean Martin. Oh, ce l'abbiamo tutti, no? Che That's Amore surgelati, sì. Ma come surgelati? Surgelati di terzo mondo. Ma siamo arrivati a un anniversario che mi colpisce nel profondo. Passando al 1963, compie 60 anni e non potevo esibirmi dal citarlo, il primo album dei Beatles. No. Please Please Me, ce l'abbiamo fatta, abbiamo i Beatles anche stavolta. Il primo? E sempre in quegli anni, tra l'Europa e l'America, si sfornavano successi ovunque, come potete sentire. Ci siamo persi il cambio, scusa. Sì. Ho abbassato sì. Nel momento che cambio. Ah, perché stai abbassando manualmente. Tutto... Quando tu parli questa regia reagisce. È tutto molto wow. Complicato. La regia. Nel 1973, 50 anni, li compie Killing Me Softly di Roberta Flack. Oltre al 50° anniversario dalla morte di Bruce Lee, di cui parleremo spoiler chi? Dopo. Dritti a 40 anni fa abbiamo una trafila di successi danzerecci e non, ma comunque storici. 40 anni li compie l'album Thriller di Michael Jackson, pieno zeppo di singoloni, come potete sentire, e il film con relativa colonna sonora Flashdance, che tanto amiamo ancora di più oggi, e non faccio spoiler a nessuno. Mamma mia, cuoricino. Ci siete? Ok. Trema il soppalco. Stiamo arrivando a 30 anni fa. Volete fare delle cose davanti a me? Ti vogliono dare fastidio, io non li ascolto. Io ho delle mani davanti alla mia tranquilla, faccia. Tranquilla. Allora, tutti voi avete presente finalmente il film capolavoro che è uscito 30 anni fa. Ci siete, no? Uno solo ne è uscito. Assolutamente. Il film. Tu l'hai vista adesso, non sei eccitato da sta cosa. Abbiamo finalmente tutti visto e apprezzato questo film. Nel frattempo si ascoltava, parlavamo di Jurassic Park, questa musica. Te ascoltavi te? Questa me l'ascoltavo io. Dai, questa Francia. Wow, questi sono i pezzi che ci piacciono. Questa è la Raul Bova che esce dall'acqua. Adesso sentitevi tutti i vecchi, per favore. Maestra Viola, per favore. È di una Beyoncé di 20 anni fa che stiamo parlando quando ascoltiamo questo brano. 20 anni fa. E compiono 20 anni anche tutti gli altri brani che l'accompagnavano nelle classifiche e oggi sono ancora in cima alle classifiche del nostro cuore. Oh, wow. Evanescence. Che a Virginia non gli piacciono manco, io sapevo. Cioè, sono passati 20 anni, mi stai dicendo. Mamma mia. 20 anni. Infatti questa cosa è ancora più spaventosa. Ragazzi, che tristezza. Eravamo partiti vivaci comunque, te lo dico. Sta fatti un po' male. Facciamo veloci come si strappa un cerotto. Prego. Una carrellata di brani che hanno 10 anni, ma che per me, e penso anche per voi, sono praticamente dell'altro ieri. Arrivano Miley Cyrus. 10 anni. No, sui 10 non sono più preparato, basta. Mamma mia, come passa il tempo quando ci si diverte. E concludiamo con il pezzo che in effetti ha 10 anni, ma io rimango ancora sconvolta da questa notizia. Cosa? Esattamente, stiamo concludendo con il brano 10 anni fa, Get Lucky dei Daft Punk. E ce lo ascoltiamo tutto perché diciamo che l'hanno appena fatto, è una novità. Noi siamo tutti contenti. Molto legati, sempre attuale. Esatto. La leggenda da Fenice che rinasce ogni 10 anni. E abbiamo concluso gli anniversarioni, possiamo passare al 2024, ragazzi, vai. Woo! Radio Forte 100 Celle Avengers, quando sentite questa voce vuol dire che sta per succedere una cosa bellissima. Sì. Niente, ogni volta che cominciamo il lancio c'è qualcuno che va all'ampli cuffie e non si sente. Oggi c'è un disservizio alle cuffie e quindi tutti i lanci vengono rovinati da questo. Tuttavia, sta per andare in onda su Radio Forte 100 Celle Avengers la rubrica gestita da una professionista dell'informazione, Gabri Grubbi, credo che faccia cenno che è a posto. Sì, no, è proprio il mio amico. Adesso si sente, sì, adesso lo sento, grazie a Giorgio che interviene tecnicamente. Giorgio, ma diciamo, posso tutto. Anche andare a braccio. Sì, diciamo, la sento e non la sento, ma andrò così. Bene, bene. Noi ti sentiamo benissimo. Perfetto, allora ben ritrovate. Abbiamo ben perso già 10 minuti. Perfetto. Andiamo subito, sì. Che cosa sta per partire? Puntata di Cigni di Balacà 2023. Cosa Cigni di Balacà? Sì. 2023, stiamo dando i numeri, questa puntata, così ci siamo presentati e anche io allora darò il mio contributo in questo senso, perché appunto stiamo dicendo che poche cose sono certe, come il passare del tempo inesorabile, ma a noi ci prende bene, questa è un'ottima notizia, e perché? Che succede? Ogni primo dell'anno, infatti, il copyright di una vasta raccolta di opere d'arte, letteratura, cinema e fotografia scade, è decaduto, rendendole a tutti gli effetti, quindi rendendo queste opere a tutti gli effetti di pubblico dominio. Mi stai dando dolore comunque, e quindi... mi dispiace, te devo interrompere. Cioè, non puoi partire così. Dire una cosa, all'inizio dell'anno. Ah no, è vero, cioè, come ho potuto, fai finta che non siamo tutti coscienti di cosa sta per succedere. Hai ragione, e allora ne approfitto anche per dire che abbiamo dimenticato di salutare Iron Man. Guarda, lui, ecco, ciao, su questo non ci sperava proprio più, perché ci vede abbastanza andando via. Va bene, Iron Man, allora aiutami tu, aiutami a dire sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Cioè, quello che voglio dire, poi mi taccio, è che devi creare un hype, niente, che Betta mi sabota, sì, no, pure lei. Cioè, devi capire, cioè, devi far capire che Cigni di Balacà è, cioè, al pari di quelli che vanno a cercare i nazisti nel mondo, è il nostro strumento di ricerca dei plagi, la gente non lo sa. Però quest'anno non ci siamo molto incentrati, non iniziamo con i plagi, e comunque questi problemi tecnici di cuffia che diciamo mi hanno mandato un attimo nel pallone, ma riprendiamo subito il discorso, ecco, perché avevo iniziato a dire appunto che nel 2023 molte opere entrano in pubblico dominio e sono quindi condivisibili, riutilizzabili per qualunque scopo, accessibili a tutti. State attenti però, perché adesso sto per interrogarvi, perché come sappiamo, per via delle diverse leggi sul copyright in tutto il mondo, non esiste un unico dominio pubblico. Quindi in paesi come l'Italia, diciamo che lo sappiamo bene, oramai dovreste averlo imparato, in Italia, anche nella gran parte dei paesi dell'Unione Europea, e quindi anche nel Regno Unito, ma anche in Russia, le idee si liberano, quindi le opere si liberano, quando? Vediamo chi me lo sa dire. Non capisco. Iron Man, sei il solito ciuccio. Ma non c'è la spiegazione oggi. Va bene, ve lo dico io. Si liberano le opere di persone decedute nel 1952. Ah. Back Live, ecco. Che fa corrispondere quindi la durata del diritto d'autore alla vita dell'autore più 70 anni. Quindi si deve contare 70 dall'anno della morte dell'autore. Mentre in paesi come Nuova Zelanda, ma anche gran parte dell'Africa e dell'Asia, si liberano quest'anno le opere di persone che sono decedute nel 1972. Attenzione, e cioè morte da 50 anni. Quindi abbiamo questo calcolo un po' diverso. E infine negli Stati Uniti, sono un po', diciamo, più severi, si liberano le opere create o pubblicate nel 1927, e quindi da 95 anni. Comunque, un applauso alla completezza, alla completezza dell'informazione. Adesso ho fatto di nuovo lo spiegone in sintesi, perché ho visto che non eravate preparati. Bene, allora facciamo una breve carrellata di opere, quindi, che nel 2023, quindi con l'inizio di quest'anno, si sono liberate. E partiamo da Sherlock Holmes, il detective più famoso del mondo, ebbene sì, e come opera letteraria del 1927, appunto, la raccolta di racconti, Il libro dei casi di Sherlock Holmes, scritto da Arthur Conan Doyle, è finalmente aperta e disponibile negli Stati Uniti, negli States. E questo quindi significa via libera a rimaneggiamenti, adattamenti cinematografici o letterari, senza né rischi né costi. Perché ne hanno fatti pochi. Esatto. Quindi... sì, che commentavamo oggi quanti ne hanno fatti, ma fino ad ora, diciamo, hanno sempre dovuto pagare gli erediti. Non so tutti i purciari, c'è sta chi paga prima. Anche Iron Man ha fatto Sherlock Holmes, scusate, io. sì. Anche Iron Man. Amore, hai reagito così anche oggi? Sì, lui, l'attore ovviamente. Io casco sempre sul solito pensiero. Robert Downey Jr. Sì. E, ah, perché non è lui? Sono la stessa persona, ma Gabri non ci crede. Lo so che Iron Man in realtà Iron Man, lascia perdere, è proprio lui segreti. Che ha fatto Sherlock Holmes. In Italia, ricordiamolo, sì. Le opere di Doyle erano già libere da un pezzo, considerato che Arthur è morto nel 1930. Senza l'H. Arthur. Arthur è morto nel sì, sta dopo l'H, nel 1930, dicevo. E quindi, come abbiamo detto e ridetto, in Italia questa legge sul diritto d'autore dopo 70 anni dalla morte fa scadere appunto i diritti sull'opera. Attenzione però, qua c'è il trabocchetto, perché in Italia le sue opere che sono state tradotte in italiano non è detto che siano del tutto libere, perché essendo lui straniero le sue opere sono state appunto tradotte e bisognerà, ahimè, attendere in questo caso la morte del traduttore. Attenzione, sì, pure. Cioè, c'è anche questo. Il traduttore lo sa. Infatti, noi gli auguriamo lunga vita. Lunga vita al traduttore. Pensa che, cioè, i sicari della mafia che vanno a cercare i traduttori. Sì, scattare. Andremo a beccare il traduttore delle opere. Cioè, di tipo la nuda proprietà, praticamente. Esatto. Tipo, sì, cioè, esatto, tipo la nuda proprietà. E, quando sarà, toccherà a lui, insomma, parleremo anche del traduttore passato a miglior vita. Vedremo. E nel frattempo passiamo a un'altra opera sempre entrata nel pubblico dominio con questo nuovo anno, e parliamo delle opere di Escher, opere di ispirazione, l'ho pronunciato bene? Escher. E opere di ispirazione matematica e logica, Franci, che ti piacerebbero sensati, so bellissima. Che ti piacciono. E il celebre grafico olandese Maurits Cornelis Escher, opere che appunto ha prodotto come famose ormai in tutto il mondo, come xilografie, litografie e mezze tinte, e sono diventate libere dove? In quei paesi, come dicevamo prima, come l'Africa, l'Asia e la Nuova Zelanda, dove il copyright termina dopo 50 anni dalla morte dell'autore. E quindi per tutti gli autori morti nel 72. Ed Escher muore appunto nel 1972 a Laren, in Olanda. Quindi io qua in Italia ancora non mi posso attaccare sul muro della cameretta le opere di Escher. No, dobbiamo aspettare altri 20 anni. Attenderò. Però ci potremo ritrovare qui nel 43. Se non ci guadagni 43. Nulla si può fare. Solo a guadagno, diciamo. Ok. Ma la sua casa è un museo. Dovete pagare quando entrate. Ok. E quando giungiamo più o meno al termine di questa carrellata, ce ne sarebbero tanti, tanti ne abbiamo pescati, ma vogliamo citare ancora Benedetto Croce, morto appunto nel 52, quindi parliamo finalmente di un autore italiano, che è uno dei nomi più importanti della storia della filosofia italiana, è stato teorico del liberalismo e fu anche fra gli oppositori dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, e anche uno dei principali esponenti dell'antifascismo tra gli intellettuali dell'epoca. E, ma Croce fu anche un autore prolifico, nell'arco di 2 decenni ha scritto di filosofia in lungo e in largo, sviluppando interessantissime attuali riflessioni sull'economia e sull'estetica, per esempio questa elaborazione critica di concetti come quelli di utile e di valore. Ma non mi dilungo oltre sull'argomento, perché c'è quest'altra autrice italiana molto diciamo interessantissima, valida e riconosciuta, la maestra, che è morta nel 52, e parlo di Maria Montessori. E su questo, diciamo, direi che il campo è della maestra Viola. Grazie. A cui passo la parola. Nel ringraziarvi vi auguro un felice 2023. Madonna, che serietà. Wow. Posso almeno mettere la sigla di stacco fra te e Viola? O... Sì, devi. Posso? Vai, vai. Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Vorrei. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. E buonasera a tutti, amici, vi ho salutato già prima, grazie Gabri per avermi ceduto la parola. E prima però di iniziare la rubrica, io devo assolutamente lanciare la Narta. Sigla! Appena messa! Ma no, era di Music and Poetry. Ah, scusate, ragazzi. Grande, Viola. Ero così. Scusa, ero scusa. Così. Grazie, grazie. Parte no, la scusate, vuole. Ragazzi. No, cioè, veramente, sulla prossima rubrica. Veramente sono in un no, mondo tutto per mio. Fortuna avevo detto che ho problemi alle cuffie. Quindi, probabilmente non no, hai sentito no, la sigla della tua stessa. No, l'ho sentita. Dobbiamo però fare come dice Virginia, le lanciamo quelle della rubrica. No, in realtà, forse perché sono rimasta un po' legata alla scorsa puntata, dove le sigle ce le siamo fatte noi all'istante, al momento. Vi ricordate? Sì, sì, è stata una cosa. È stata bella, però Viola, se non ti piace più la tua sigla me lo puoi dire. No, mi piace. Allora, buonasera, grazie Gabri, come dicevo. Manda la sigla, allora, no, basta. Ragazzi, ma poi però posso mandare la sigla di qualcun altro dopo, giusto per dire sigla. Sì. Cioè, no, io volevo dire sigla. Che io l'ho dimenticata. Vabbè, no. Ci siamo compensate. Dai. Siamo non compensate. Lo fate, perché ogni volta che dite sigla io mi impanico e vado a cercare di abbassare il sottofondo. Quello che succede è che loro si mettono le mani in una sola. Sì, ciao, ci siamo venati. Prego. E quindi parlando appunto di questo pubblico dominio, come diceva Gabri, di queste morti successe diciamo più di 70 anni fa, e se nel 2022, se vi ricordate bene amici, abbiamo parlato di Ludwig Wittgenstein. Wow. Un anno di distanza il cognome c'è. Nel 2023, appunto, come diceva Gabri, altri pensatori italiani, ci soffermiamo sugli italiani, hanno consegnato, quindi consegnano le loro opere alla comunità globale. E tra questi, appunto, è stato citato Benedetto Croce, ma io mi soffermo appunto su La Maestra, che tutti ricorderete per il suo la sua faccia, proprio la sua immagine, il suo viso stampato sulle 1000 lire. Bravissimi. Brava, sì è proprio lei. Lei è Maria Montessori e diciamo che c'è questo attivo membro del di Wikimedia diciamo Italia, che è anche un insegnante, che ricorda appunto quando ha conosciuto, diciamo ha imparato a conoscere la figura di questa donna, insegnante e pedagogista. È una persona che con la sua visione della scuola e della modalità di insegnamento ha influenzato molto del pensiero pedagogico attuale e quindi diciamo durante i suoi studi da insegnante ha avuto l'occasione di visitare appunto queste proprio scuole montessoriane e che sono connaturate appunto contrassegnate da un'atmosfera di silenzio, di tranquillità che diciamo nonostante poi bambini presenti in queste scuole ciao bimbi a volte nonostante appunto ognuno seguisse un'attività diversa, però diciamo quello che colpì questo insegnante fu proprio la tranquillità che aleggiava diciamo in queste aule. Ma e diciamo questo approccio di Montessori è molto importante per la scuola, anche chi non segue un metodo montessoriano, però diciamo l'approccio del learning by doing, cioè imparare facendo, e quindi è proprio diciamo la cosa più importante è lasciare diciamo il bambino fautore del suo apprendimento. Quindi un altro, cito brevemente un'altra opera enorme di Montessori, che è l'autoeducazione. E quindi diciamo che il pensiero quindi montessoriano si fonda proprio sull'idea centrale secondo cui ciascun bambino possiede un potenziale psichico ed intellettivo unico e ripetibile, e che per questo, nel rispetto del proprio sviluppo, deve essere accompagnato nella crescita in modo da potersi esprimere liberamente. E adesso amici, non mi dilungo ancora e vi lascio con diciamo una massima di Maria Montessori: l'umanità che si rivela in tutto il suo splendore intellettuale durante la dolce e tenera età dell'infanzia dovrebbe essere rispettata con una sorta di venerazione religiosa. È come il sole che appare all'alba o un fiore appena sbocciato. L'educazione non può essere efficace se non aiuta il bambino ad aprire se stesso alla vita. Wow. Grazie Maria Montessori. Grazie Viola, grazie maestra. Grazie a voi. E secondo me ci ascoltavamo qualcosa secondo la scaletta. Che sì, io ho una domanda di chiusura a questa cosa ed è se funziona, questo metodo funziona anche con i cani. Ma proseguirei passando al brano che andremo ad ascoltare, che è un brano del 2003, quindi compie ben 20 anni. Vantango dei Franz Ferdinand. Ci studieremo questa cosa, Virgi. L'ha musculato, quindi. Ce la studieremo. Radio Forte 100 Celle Avengers in diretta alle 5 e mezza circa, comincia a essere sappochista questa cosa dell'ora che ogni porta non inceppo. Si è scaricato l'orologio, noi non lo sappiamo, lo sai. Di sabato 14, c'ho pure i secondi, pensa. Gennaio del 2023, questa puntata che vede l'avvicendarsi, come avevo già detto, di diversi numeri, infatti mi avete già confuso tutto quanto. È andato appena in onda Cigni di Balacà, lo ripeto, la rubrica che si occupa dei plagi ma anche del diritto d'autore, in questo caso infatti si è fatta promotrice di un'iniziativa che poi sono diciamo già orgogliosamente alla terza edizione, se non sbaglio, in cui appunto la giornalista Gabri Grubbi ha destato il nostro interesse sullo sbloccare. La parola chiave è sbloccare. I giovani d'oggi sbloccano i personaggi nei videogames. E noi pure sbloccammo i personaggi. Praticamente col 2023 abbiamo fatto la nostra ricerca. Già, cioè, ricordo l'entusiasmo nei morti del 51, per non parlare dei morti del 50, che ha inaugurato questa tradizione, diciamo, di 100 Celle Avengers. Cosa mancava? Mancava un po' di allegria, perché sinceramente sempre dei morti stiamo a parlare, quindi non lo so, c'era un po' voglia di freschezza, perché comunque è un po' il concetto di aver chiuso una porta, sapere un portone, cioè morto un papa se ne fa un altro, insomma, non una, dire quello così. Che può essere. Scusate, non volevo. Stavolta già ce ne abbiamo un altro. No, non era voluta. Comunque, mi avete fatto perdere, mannaggia. Dicevo, ci mancava un po' d'allegria, quindi abbiamo voluto interpretare tutto questo, soprattutto nella sigla, con un po' più di diciamo opportunismo per il futuro. Qui la vita nel 52 è uno spasso, ma diventa ancora meglio, sai, se trapasso. Quanti diritti sai, tanti diritti avrai. Forti, forti nel 52 siamo. Le nostre idee ora sono due, siamo morti. Risata. Wow. Che ridere. Ed è appunto con questo entusiasmo che noi andiamo a interrogare appunto la signorina qui che rideva sguaiatamente, Alexa, che è la nostra principale, diciamo, ricercatrice di grandi morti. Sì. Vero? Hai fatto il compito. Sì. Faccio sentire la prima cosa, va? Sì, vai, mamma mia, mi importa quest'intro. 1 agosto 1952. Buono. Muore Georg Ax, pallanuotista e ginnasta tedesco. Niente, ancora non abbiamo capito il concetto. Almeno artista, almeno di qualche, non dico musica, ma almeno... Cioè, no. Vabbè, ce n'è qualcun altro, spero, almeno un altro? Sì. dicembre 1952. Sì, sempre quello. Muore Takenoshi Nakai, botanico giapponese. Allora, a parte che abbiamo detto che sta cosa vale in Italia, giusto Gabri? Perché poi non è che possiamo divertirci più di tanto, ma sempre, cioè, riprova, cioè, ce n'hai qualcun altro, spero. Questa mi sento che è buona. 8 novembre 1952. Muore Gino Fano, matematico italiano. Attenzione, matematico italiano. Matematico parola, italiano. Matematica. Che cosa mi va a scovare, Alexa? Ma come mai questa cosa? L'ho fatto per te, Franci. Non ho capito. No, che applaudite, scusate. Sono commosso. Alexa, di la parola numero. Ah, c'è qualcuno che potrebbe non gradire. Ma non Alexa si è innamorata. Franci. Ha preso una cotta. Sono affascinata dalla tua mente brillante piena di numeri. Carino. Finalmente qualcuno che mi capisce. No, cosa gli faccio io ai transistor, mamma mia. Allora, Iron Man, tu non ti preoccupare, questa è una cosa che sicuramente sono amici, no. Hanno collaborato durante le vacanze su questa ricerca e non è il momento adesso, credo, di chiarire la cosa. Sta di fatto che appunto Gino, come si chiamava? Gino Fano, viene ricordato, io questo lo voglio dire, per cosa secondo voi? Che cosa ha inventato? Magari Franci lo sa pure. I numeri usa. No, sono impreparato. Ha inventato un piano. Cioè, Gino Fano, matematico italiano, ha inventato il piano che è detto appunto Fano. Vi giuro che è tutta una cosa su cui farei una canzone. Cioè, perché poi dovete avere ricerche. O che ridere. Dovete pensare al futuro. Cioè, che ne so, una canzone tipo quelle su Bartali, su Gino Fano, matematico italiano. Vabbè, pensateci. Mamma mia, che rima! Sta di fatto che mi sa che Alexa non ha ancora finito. Aprile 1952. Muore Nicholas Laucella, flautista e compositore statunitense. Abbiamo beccato il primo musicista, amici di Centocelle Avengers, qui in diretta. Sono emozionato, anche se non trovo ovviamente il contributo, ma cioè, voglio dire. Ma no, chi non conosce Laucella? Ecco. Scusate, questa è Laucella, sentite il flauto tipico alla Laucella. Da oggi questo frullino, questo coso lo potete fare anche voi. Sì, lo potete fare anche voi senza mandare alla famiglia Laucella alcun soldo di SIAE. No, E poi vabbè, questa è Dusolina Giannini, che vabbè, poi, insomma, è sempre lì a... Ma sentiamo un'altra. Comunque era brava Dusolina, per carità. 30 ottobre 1952. Questo mi sento che è la chicca. Muore Mike Pingitore, suonatore di banjo statunitense. Oh, e questo vabbè, anche se mi sei andato un'altra volta sullo statunitense, quindi un'altra volta non vale, però bisogna dire che è nella Hall of Fame dei suonatori di banjo. Questo lo abbiamo, è una delle poche cose vere che volevo dire oggi, e anche di lui ovviamente non trovo più il contributo, ma questo lo so. E tuttavia, volevo dire che moriva, pare, anche Eva Perón, detta Evita. Questo solo per dire che qualcuno poteva anche aver pensato che Evita fosse un film sulla vita di Madonna, qualcuno, cioè, perché i giovani d'oggi si sa che non sanno più che... Parliamo di giovani incontrati per strada, non di giornalisti plurilaureati. Tuttavia, appunto, ispirato da questa cosa della storia di Madonna, vi sparo un po' le mighi, così per non sapere bene come vedermela, anche perché mi dispiace un po' per il suonatore di banjo, poi rimedieremo. Cosa c'è? Ma Paul, non capisco perché ha invitato anche lei. Oh, ancora questa storia. Ti ho spiegato che si tratta di un investimento. Oh, anche lei ha molti soldini. Qualcuno potrebbe riconoscerti. Non fare lo stupido. Nessuno farà caso a noi. Siamo in incognito. Hello! Te lo avevo detto. Non essere maleducato con la nostra ospite. Andiamo. Siete pronti? Shh. Piano, piano. Siete caldi? Shh. Bene, anch'io. Non farti sentire. Oh, come on. I like Italia, il paese dell'amore. Piano, Luis. Qualcuno potrebbe sentirti. Indossa questi occhiali ed entriamo. Da questa parte. Let's go. Vieni, Michael, da questa parte. Abbiamo preso dei posti in tribuna, mia cara. Sarà un match molto importante. Il derby della capitale. Oh, oh! Paul! Che cosa c'è ancora? Mi sembra che la nostra ospite si stia annoiando. Oh! Oh, oh! Qualcosa non va, cara? It's fucking boring. What am I doing here? Football. Oh. What's wrong with you? Please, let's go away. Andiamo. Wait a minute. What? Wait a minute. Wait a minute. What's this? Ma Paul. I like it. I like this melody. Oh, oh, oh. It's perfect. Oh, oh. It's perfect. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. E niente, sul sottofondo di Don't Cry for Me, Argentina. Ricordiamo appunto questa ristampona di Paul e Mickey, racconti fiction sulla amicizia fra Paul McCartney e Michael Jackson, e ci ha dato anche il tempo di ritrovare quello che era appunto la Hall of Fame del banjo. Ritorniamo per un secondo all'orchestra di Paolo Bianco Uomo, Paul Whiteman, dove suonava appunto il grandissimo Mike Pingitore, sentitelo. Perché quello che è giusto è giusto, e volevo chiudere questa cosa prima di parlare della attualità che richiede il sottofondo standard, grazie, ma che poi ha anche una sigla o comunque un sottofondo tutto suo, perché in questo momento, spero, io adesso non posso guardare, guardo, è pronto con la cuffia, il nostro Jorge, Jorge mentiroso, detto anche quello che non dice la verità. Prego. Infatti, benvenute e benvenuti a questo nuovo anno meteorologico. Prendiamo nota. L'applauso al ritorno di Jorge. Il meteoroso. Prendiamo nota che nel 2022 la stazione meteo del Forte Prenestino ha conquistato una medaglia d'oro per avere dal sito Met Office, Weather Observation website, per avere sottoposto per più di 350 giorni le osservazioni meteo, e quindi incoraggiati da questo risultato, che diciamo l'anno prima era andata meno bene perché qualcuno si era dimenticato di premere ok sulla centralina e quindi per un paio di mesi non ha funzionato, però diciamo. Ma era ok, perché magari non era ok la situazione, allora quella persona non l'ha premuto per questo. No, era ok. Era ok. Ma si era addormentato. Si vince qualcosa per aver, diciamo, no, non fornito si vince informazioni niente, non si vince niente. Puntuali. No, non si vince niente, però il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Forte Prenestino, incoraggiato da ciò, probabilmente investirà in delle sonde meteorologiche che andranno ai confini e forse oltre la ionosfera. Attenzione. Per l'anno 2023, forse. Attenzione, ma stai alludendo al progetto satellitare o forse... Ma è un segreto, roba. Questo è ancora un segreto. Scusate, non possiamo dire di più. Ok. Intanto però... Cioè, intanto vediamo che cosa ci dice di questo inizio anno il nostro meteo. Allora, vediamo che nel gennaio 2023 ha avuto una temperatura media di 3,8 gradi, sempre al Forte Prenestino, 2022, mentre il 2023 ha avuto 9,7 gradi di media. Di media. La minima di quest'anno è stata -0,3 e la massima 18,1, mentre l'anno scorso la minima è stata di -2,9 e la massima di 15,6. Quindi si prospetta un anno, forse, se i numeri vogliono dire qualcosa, un po' più caldo e anche più ventoso, visto che la raffica massima del gennaio 2022 è stata di 16,1 km all'ora e quella di quest'anno è stata di 29, di questi 15 giorni diciamo, è stata di 29 km all'ora. Ma soprattutto l'anno scorso, in tutto gennaio, ha fatto 8,88 mm di pioggia, mentre nel gennaio 2023, sempre nei primi 15 giorni, ha fatto ben 23,6 mm di pioggia. Quindi se ipotizziamo che il resto di gennaio sarà così, questo gennaio è 5 volte più piovoso di quello dell'anno scorso. E torniamo ai numeri. Ma vediamo, visto che domani c'è il terra-terra, il primo terra-terra dell'anno, vediamo, il tempo dovrebbe essere discreto fino alle 15, okay, quando ci allora sarà frutta e verdura in quantità. C'è un'elevata probabilità di modestissime precipitazioni alle 15. Precipitevolissime volumenti. Ma vogliamo dare anche il punto di rugiada per essere completi? Quello, il punto di rugiada non l'ho Sai visto. Che ci tengo, non l'ho però, visto, mannaggio. Ma te lo posso dire subito il punto di rugiada. Vabbè, no, tranquillo, attuale, Giorgio. Attuale, no, figurati, attuale. Tanto siamo qui. Non fare così. No, scusa, Iron, anche tu pure potevi andare a rilevare un secondo. È 6,3 gradi al momento il punto di rugiada. No, 5,8, scusa, dati real time. E questo cosa ci racconta? Che non memorano le piante. Che se facessero 5,8 gradi ci sarebbe la brina sulle foglie, ma non lo fanno. Ah, che bella la natura, i suoi misteri. Molto bene. Un applauso all'informazione puntuale, a Centocelle Avengers. E a questo punto mi sembrava fosse opportuno sentire un pezzo di cui, come al solito, c'ho il 50% di possibilità di sbagliare autore con il nome del pezzo, però forse è facile. John Fox, Giovanni però? Volpe, è il nome del gruppo, lo sapevo. Del gruppo? No. Del, De che? Dell'autore. Forse lo dovevi presentare a te, comunque, per dare più dignità all'autore. Io... Allora, John Fox con due X finali. John Fox, primo cantante degli Ultravox. Questo primo, degli Ultravox. Con due X, poi diventarono gli Ultravox con una X quando andò via John Fox. Ma non mi ricordo il nome del cantante. Va bene, comunque. Va bene, è tutto a posto. Miles Away, John Fox. In diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, quasi finita la prima ora di divertimento alti e bassi e medi, basato su metterla difficile, metterla giù dura per gli ascoltatori che fra tanti numeri non ci avranno più. E non è vero, siamo sempre gonfi di rubriche che diventano altre rubriche. Infatti è un po' con orgoglio quando sto così, è perché c'ho una sigla sotto la zampa. E che vi presento la sigla che dovrebbe essere quella dello SDOS Elementos, che continuo a chiamare lo SDOS Elementos perché appunto nell'attualità che segue il medio di Jorge parliamo della scuola di musica. La scuola di musica quest'anno non sono quattro Elementos, sono DOS, e quindi per il momento l'abbiamo chiamati così, ma in realtà cominciamo a assimilare il fatto che si chiamano Gemme e Mirko. Gemme e Mirko, io l'ho sintetizzata perché sennò poi Gemme le Hologans, Mirko e via, cioè Gemme e Mirko, un po', sì, non lo so, conflittuale, qualcuno potrebbe dire bla bla bla, però nel frattempo abbiamo la sigla con orgoglio 100 Celle Avengers. fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. E promette di essere l'abilito più seguito della storia del... Ed è proprio qui che cominciate a pagare. Non siete in competizione l'uno contro l'altra. Ripeto, non siete in competizione l'uno contro l'altra. Il mio nome è Jerry. Quanto scanto qui per voi. Dove per pensare? Sono una cantante. Lo so. Il mio nome è Jen. Lo so. Sì. Tu penserai a me. Sono sempre un'emozione. Solo, solo. Competizione violenta, è per questo che sei qui, Certo. Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. Bellissimo. E sul Nunciaco che cade, io ricordo appunto quando dissi la prima volta al laboratorio di musica insieme, perché la musica non deve essere competitiva, non vi dovete bullizzare, non dovete fare quelli bravi che poi fanno quelli pire contro quelle pippe, eccetera, eccetera. E niente, poi, poi sono finito a fare proposte, almeno nella logistica, nella gestione delle lezioni, che invogliano, diciamo, questo dualismo. E allora io, come al solito, illudendomi che la gente capisca la mia ironia, poi cavalco questa cosa, e appunto questa che avete sentito è una sigla basata su, diciamo, una guerra combattuta a colpi di fettine panate, o comunque o comunque accordi e fettine panate, diciamo, che racconta in un minuto quello che è la situazione attuale delle due classi che non si vedono, non si conoscono praticamente, no, non è vero, si sono un po' rimescolate, ma appunto sono divise come al solito nelle due sale prove, si preparano a quello che posso dire sarà il saggio di metà anno, si può dire con ufficialità. Applauso. Mi ha staccato una orecchia sta applauso, ma è colpa di Gemme e le Holograms che avevo alzato prima. E niente, no, mi ero dimenticato che c'eravamo questa news da dare, non da poco. No. Tuttavia, appunto, è l'unica cosa che riempie il contenuto di Gemme e le Holograms. Perché? Perché io avevo sta fissa da competizione, ironica, non ironica, che vado a prendere una base musicale che sicuramente tutti, solo Francesco, ma forse neanche Francesco, avete riconosciuto. E cioè... L'ultimo combattimento di Chen. Ma certo, chi non l'ha riconosciuto? Colonna sonora originale del film L'ultimo combattimento di Chen, ultimo film di Bruce Lee. E qui subito. E quindi mi risale, esatto, mi risale tutta l'ondata di ricordi legati a Bruce Lee e alla sua morte. E a un certo punto, quindi, nel chiedere poi una mano a Virginia per fare in realtà la rubrica, quella che parlava della musica, finiamo a ingarellarci al punto che risveglio in Virginia il suo, diciamo, il suo killabistismo, il suo raitreismo, il suo un giorno in preturismo. Sta di fatto che abbiamo una nuova rubrica, e su questo prego. Bene, la nuova rubrica sarà una rubrica crime, il suo nome è CSI Centocelle e i crimini saranno svelati e risolti tutti in questa sede, e quindi mi serve soltanto di dire la parola magica. Sigla! Io ho ucciso la signora Augusta Terzi con fredda determinazione. Si ricorda quella signora in via del Tempio che è stata uccisa? Beh, l'ho uccisa io. Sono un assassino. Mi guardi, non capita tutti i giorni di vedere a 20 centimetri di distanza la faccia di un assassino. Complimenti comunque per la sigla, che è molto bella, finissima. Grande. Ora manca solo una cosa a tutto questo, ovvero, maestro, il sottofondo della nuova rubrica, la rubrica più inquietante della nostra trasmissione. Oh Gesù, mi hai preso sul serio? Eh sì, oh, scusa, paura. Le cose si fanno bene. Ma dal titolo? Sì, e sai, Centocelle. Ah, ok, l'avevamo già detto. Ripeti. Sì, ma che sei viola oggi? Sono un po' viola oggi. Scusa Viola, questo era bullismo gratuito. Gratuito però. Completamente gratuito. Preferisci essere tu me? No, ma non ti conviene. Un attimo di contegno, per favore. Onore. Cambiamo sottofondo. Torniamo in atmosfera. Prego. Allora, incitata dal maestro a parlare del nostro Bruce Lee. No, scusa, vabbè, meno una, per far capire chi è Bruce Lee, la gente non lo sa. Allora voglio un suono anche per il figlio Brandon Lee. Non può piovere per sempre. Il corvo. Forse il rumore di una pallotta. Raga, fatela voi. Allora, no, qua c'è scritto tutto. No, prego, prego. Scusaci. No, no, non era, non era una ripresa per, nei vostri confronti, era un'incitazione. Allora, dicevo. Parleremo del... Non riesco a fare una voce seria. Parleremo di Bruce Lee. Bruce Lee e Brandon Lee. Le loro morti ricorrono, diciamo, come anniversari anche loro in questo 2023, perché ci troviamo esattamente a 50 anni dalla morte di Bruce Lee e a 30 anni dalla morte di suo figlio Brandon. Grazie. Un altro colpo messo a segno. Ho concluso. Anniversario, vai. Anniversarione. Allora, parliamo inizialmente di Bruce Lee e della sua morte. Dopo aver lavorato alla sessione di doppiaggio del suo ultimo film, che uscì postumo, I Tre dell'Operazione Drago, e qui infatti ti volevo subito contraddire, perché non è stato il suo ultimo film, quello che avevi detto prima, ovvero... L'ultimo combattimento di Jenna è uscito proprio postumo. Lui postumo proprio nel 78, addirittura, ma ce ne furono altri che uscirono dopo. Infatti, Game of Death, mi pare si chiamasse nell'originale, ci fu anche Game of Death 2. Ce ne stavano ancora altri. Vabbè, a me piace contraddire le persone. Comunque, rovinarmi le cose di infanzia. Sì. Prego, prego. Allora, ci troviamo appunto nella sessione di doppiaggio del film I Tre dell'Operazione Drago. Giorni prima a Bruce Lee fu riscontrato, dopo un malore sul set, un edema cerebrale da tenere sotto controllo con dei farmaci. Il 20 luglio però, dopo essersi sentito male per un mal di testa fulminante, si addormentò sotto antidolorifici, ma per una probabile reazione allergica il suo cervello subì uno sviluppo abnorme, cheat. E durante il sonno il suo cervello crebbe ben del 13%. La sua morte è stata considerata dal coroner una disgrazia più che un incidente, poiché con questa accezione ci si riferisce più che altro al rischio che lo scomparso sia assunto in prima persona, date le condizioni cliniche in cui versava e appunto date il fatto che gli fu sconsigliato di prendere dei farmaci di sua spontanea volontà. E da qui in realtà abbiamo appunto delle domande sul perché arrivò questa sua condizione clinica. Alcuni nel corso del tempo hanno attribuito i danni al cervello dell'attore ai numerosi colpi ricevuti nella pratica delle arti marziali, cosa che in realtà in questi ultimi tempi non sembra nemmeno così strana, perché se ne sta parlando sempre di più appunto delle motivi di preoccupazione per chi pratica sport di contatto. Un'altra causa della comparsa dei suoi edemi cerebrali, che furono appunto due, potrebbe essere stato un colpo di calore, nel senso più clinico del termine. In quanto l'attore si era sottoposto, pensate un po', all'asporto delle ghiandole sudoripare per evitare di essere e di apparire sudato durante le riprese, cosa che ad ogni sforzo fisico poi gli avrebbe fatto salire la temperatura a dismisura. E queste sono, diciamo, sono le teorie cliniche sulla morte di Bruce Lee. Passiamo al figlio, Brandon Lee, che morì a 28 anni, esattamente 30 anni fa, e appunto anche questa è un'altra ricorrenza. Brandon Lee morì per un incidente sul set, mentre girava il film Il Corvo, che penso tutti abbiamo visto, comunque tutti ne abbiamo sentito parlare, in una scena dove avrebbero dovuto sparare al suo personaggio. Ma la pistola, invece di essere caricata a salve, fu caricata con dei proiettili veri a cui rimossero la polvere da sparo e rimossero anche altre cose, non le so queste cose che vogliono dire, però insomma, quello che è successo è che questi proiettili non furono i proiettili a salve e diciamo sicuri. Questo perché la produzione aveva terminato i veri e propri proiettili a salve. Nel momento di girare la scena, l'attore Michael Massey, che interpretava Fanboy, che uccideva il personaggio di The Raven nel film, sparò come da copione a Brandon Lee, che cadde a terra tra la convinzione di tutta la troupe che stesse ancora recitando. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava fu Eliza Hutton, fidanzata di Brandon Lee e assistente di produzione, e l'attore fu trasportato in ospedale e morì dopo pochissimo tempo. Ma che felice. Eh sì. Ma parliamo delle teorie del complotto dietro queste due morti. Una delle teorie sulla morte di Bruce Lee, e quindi parliamo del padre, fu che la sua amante Betty, che era colei che gli diede gli antidolorifici, appartenesse alla mafia cinese e lo avesse avvelenato di proposito, considerando anche il ritardo che fece nel chiamare i soccorsi. A supporto di questa teoria però abbiamo anche una coincidenza inquietante, in quanto nel film L'ultimo combattimento di Chen, appunto, il personaggio di Bruce muore con un colpo di arma da fuoco sul set di un film che stava girando per mano proprio della mafia cinese, esattamente come poi morì il figlio. Dopo la morte di Brandon, invece, essendo morto in giovane età anche il fratello di Bruce Lee, quindi lo zio di Brandon Lee, non avete idea, c'è una famiglia che... La strage di Lee. Scusate, rientro nel personaggio. Sembra la canzone di Profilax, quella che fa niente in me. No, condoglianze, scusate. Condoglianze. Salutiamo la signora Lee. L'altra canzone era Fatti una famiglia. Fatti una famiglia. In senso letterale. Allora... Dopo la morte di Brandon, essendo morto in giovane età anche il fratello di Bruce Lee e quindi zio di Brandon Lee, per i nonni di Brandon e i genitori di Bruce, quindi, a quel punto parve normale parlare di una vera e propria maledizione. Questa teoria prese piede nei due, diciamo, parenti dei due scomparsi quando morì il loro precedente figlio maschio. E per questo il nome cantonese di Bruce Lee, che gli fu dato, e mi rifiuto assolutamente di pronunciarlo, è in realtà un nome femminile che vuol dire piccola felice, se non sbaglio, per depistare lo spirito maligno che credevano perseguitasse tutta la famiglia e i maschi della famiglia più che altro. A supporto di questa teoria paranormale c'è la storia del film tributo alla vita di Bruce Lee, Dragon, in cui si narra del demone che perseguitava la vita di Bruce Lee, che perde interesse per il padre poco prima di essere sconfitto e inizia a interessarsi al figlio Brandon, che casualmente morì proprio a pochi mesi dall'uscita di questo film. E ora lo posso dire? Paura, eh? Coincidenze? Molto. Io non credo. Grazie. Complimenti. Mi sembra giusto adesso concludere e ascoltare il tributo del cantante e compositore Robert Lee, fratello minore di Bruce Lee e quindi parte integrante di questa storia, che scrisse tra le altre cose anche un album per ricordare il fratello scomparso, compreso il brano The Ballad of Bruce Lee del 1975, che andremo subito ad ascoltare. Prego, maestri. Ma è vivo? Thank you. poems, art, and his philosophy. But like a flash of lightning, now he's gone. But I know his memory will live on. Into this world came a little dragon, Bruce Lee. His hands and feet, fast, powerful and mighty. It was easy for him to win the world's acclaim, for he was strong and his will untamed. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Rientriamo in voce, Centocelle Avengers, sono le 18:14. Sì, 15. Scattato, ora, sì, esatto, il minuto 15. E, allora proseguiamo con adesso una nuova puntata di Artifici, la rubrica che parla di storia dell'arte e che ci arriva da lontano, ce la manda Angelo Papone, che salutiamo. E, ciao Angelo. Grande buon Angelone. Anno Angelo. Buon anno. E che riprendiamo in questo caso le fila del discorso su arte e committenza, ma è già, diciamo, ne avevamo parlato, la potete ascoltare nella puntata precedente, un primo intro sull'argomento molto interessante che adesso va a proseguire e quindi direi, maestro, siamo pronti, posso mandare la sigla di Artifici. Grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche ed amici di Radio Forte, di Centocelle Avengers, buon pomeriggio e bentornati ad Artifici. La pillola di oggi riprende un po' l'argomento della puntata precedente. Torniamo sull'argomento di arte e committenza, sottotitolo Il cammino dell'arte e degli artisti verso la libertà. Accennavamo la volta scorsa che la libertà dell'arte e degli artisti è una conquista relativamente recente e non va mai data per acquisita una volta per tutte. Dicevamo che dall'inizio e per millenni la produzione di ogni forma d'arte è stata quasi esclusivamente determinata dalla committenza rappresentata dalle classi al potere, cioè la classe politica, la classe religiosa, la classe dei notabili, classi alle quali appartenevano soggetti che, avendo intanto disponibilità di denaro, tra una guerra, un rogo e un ballo a corte, potevano consentirsi di pagare chi era in grado di produrre immagini o statue o decori architettonici. Quando si parla di mecenati bisogna stare attenti. La maggior parte di loro non erano né munifici e né generosi. Magari erano collezionisti d'arte e se pagavano lo facevano più per la loro gloria e per ostentare il loro potere che per esaltare il valore dell'arte e degli artisti. Peraltro il concetto di artista per lungo tempo non è esistito. Tutti coloro che erano in grado di usare colori e pennelli o scalpelli o altro erano considerati semplici artigiani e, come vedremo, solo con i geni del Rinascimento cominciarono a cambiare un po' le cose. La volta scorsa avevamo sinteticamente detto, avevamo parlato un po' degli inizi dell'arte, quindi ci siamo soffermati sulle pitture parietali, sulle prime sculture. E da lì poi si era fatto un lungo salto, per abbreviare, per restare nel tempo assegnato alla rubrica, si era arrivata alla fine, in sostanza quasi alla fine dell'Ottocento. Cerchiamo di riprendere sinteticamente sempre il percorso, e se non dovesse essere possibile esaurire tutti gli argomenti, dedicheremo una terza pillola all'argomento stesso. È intuibile che nelle civiltà mesopotamiche, le prime per le quali si può cominciare a parlare di storia e non più di preistoria, perché è la scrittura, lì hanno inventato la scrittura, è la scrittura che segna il confine, perché tra l'era antica e l'era successiva, perché con la scrittura si sono lasciate tracce scritte di quello che accadeva. Allora, nelle civiltà mesopotamiche non si poteva parlare assolutamente di arte, men che meno di arte libera. L'abbiamo detto, coloro che operavano erano degli artigiani, esecutori e basta. I loro prodotti avevano solo funzione celebrativa del potere civile e religioso. In Grecia e a Roma la situazione non cambia molto. Forse la variante sta nel fatto che il lavoro degli artigiani era richiesto anche dai ricchi mercanti, che spesso erano liberti, schiavi liberati, e arricchitisi. Questo soprattutto per Roma, se si pensa alle ville di Pompei, di Ostia Antica, di Oplondis, che coincide con Torre Annunziata, a Piazza Armerina in Sicilia, giusto per indicarne qualcuno, queste ville offrono un buon esempio di come la committenza privata fosse fiorente non meno di quella pubblica. A Roma, peraltro, la richiesta di statue era talmente pressante che indusse gli scalpellini a ricorrere ad un curioso espediente per stare al passo con i committenti. Quando veniva nominato un console, un tribuno, un magistrato, ognuno voleva che al più presto la sua statua campeggiasse dovunque. Gli artigiani non facevano in tempo a scolpire tutta una statua, sicché scolpivano solo la testa del committente e la sostituivano alla testa di una qualche statua fatta in precedenza il cui rappresentato magari era morto o era caduto in disgrazia, cioè quella testa non serviva più. Toglievano la vecchia e mettevano la nuova, oppure collocavano la testa del nuovo eletto su modelli scolpiti in precedenza. Questo era possibile perché abbigliamento e atteggiamento della persona rappresentata erano sempre uguali, erano i tipici della carica alla quale era assurto il nuovo eletto. Quindi vestiti ed atteggiamento identificavano esse il simbolo del potere, indipendentemente dalla fisionomia del soggetto rappresentato. Facciamo un lungo salto e arriviamo al Medioevo. Cosa? Siamo già nel Medioevo? Sì, caro Iron Man, la storia dell'arte è lunga e non posso raccontarti tutto io, ma ti ho dato degli spunti. Quindi, una buona serata a tutte e a tutti. Riprendiamo la prossima volta con arte e committenza nel Medioevo. Ciao! Cioè, come ti sei permesso, Iron Man, di censurare? Vabbè. Fare il lavoro sporco ai devices. Esatto. Chiedo scusa. E adesso lanciamo un pezzo tributo a questo punto al nostro caro per Angelo. Per farci perdonare di questa piccola censura. Si chiama? E si chiama proprio Angelo. Razzac più. Vai. Lui si sente veramente come un angelo che sente e che vola sopra ogni cosa e vive tra la gente. Lui non sa farsi vedere, lui non sa farsi sentire. Quando ce lo ride, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la solamente è vero che lui è un bastardo solo, si dà botte tra la gente per mostrare che esiste in te. Lui si sente sempre solo, bastardo, figlio del niente. Quando c'è Radio Forte, 100 Celle Avengers in diretta sempre alle 18:26 di questo sabato 14 gennaio 2023. Gonfia di numeri appunto questa puntatona, è il momento in cui, come avevo annunciato, si mette ordine in questo mondo fatto di di cose a noi oscure, perché numeri? C'è qualcuno che ce le sa spiegare nella maniera giusta, sussidiaria, oserei dire sussidiaria. Montessoriana. L'unica cosa, prendete, ripeto, un pezzo di carta e una penna, perché se no andate fuori dopo poco. È una di quelle serie TV tipo Regole del diritto perfetto, che ti perdi un secondo e non ci capisci più niente. Quindi, pronti? Io, cioè, vorrei che tu ti lanciassi là. Oggi parleremo di dimostrazione per assurdo. Sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Ma è vero, interessa. È vero che vi interessa a tutti, dai, dite la verità. Sì. Sì. Sì. E allora, benvenuti a Welcome to Grand Hotel Hilbert, la rubrica che si propone di farmi imparare la corretta dizione della parola numero. Ma oggi sappiate che ho scelto l'argomento della puntata apposta proprio per non dirla mai, quindi sarà roba vostra. Oh no. Già. E allora oggi parliamo di dimostrazione per assurdo. La dimostrazione per assurdo è quella cosa che in una visione un po' spannometrica delle cose funziona più o meno così. Prego maestro, il primo contributo. Bevi il tuo drink. Ma io non lo voglio il drink. Non lo vuole il drink. Lo vuole. Non lo voglio. Lo vuoi. Non lo voglio. Lo vuoi. Non lo voglio. Non lo vuoi. Lo voglio. Non lo vuoi. Lo voglio. Non lo vuoi. Insomma Eddie, quando dico che lo voglio vuol dire che lo voglio. Ecco qui. Grande, per me già visto. Ottimo, cioè, approccio. La quindi, contrario, che cos'è? Quindi, se volete seguire delle corrette dimostrazioni per assurdo, non dovete fare altro che vestirvi da Roger Rabbit, ubriacarvi male, uscire per le strade e saprete tutto quanto della dimostrazione. Ammazza la vecchia. Esatto, ammazza. Allora, andando più nel dettaglio, la dimostrazione per assurdo, per cui si usa anche la locuzione latina reductio ad absurdum, nota anche come ragionamento per assurdo, è un tipo di argomentazione logica nella quale, cercando di dimostrare, appunto per assurdo, la negazione della tesi che si intende sostenere e facendone seguire una sequenza di passaggi logico-deduttivi, si giunge a una conclusione incoerente e contraddittoria, cioè a una negazione delle ipotesi di partenza. Si dimostrerebbe quindi la tesi iniziale alla quale si vuole giungere per mezzo della falsificazione della sua negazione. Mi spiego. Questo metodo logico fa uso del principio del terzo escluso, tertium non datur, il quale dichiara che un enunciato, che non può essere falso, deve essere assunto come vero non essendovi una terza possibilità. Infatti, a livello procedurale, la dimostrazione per assurdo segue i seguenti passaggi. Primo, voglio dimostrare che un enunciato, che chiamo E, è vero. Secondo, suppongo che E, per assurdo appunto, sia falso, ossia che sia vero non E. Ok? Ci siete fino a qui? Sì. Terzo, durante la procedura di dimostrazione trovo una contraddizione, riscontro cioè che non è, è falso. Infine, siccome non possono essere falsi sia è che non è, allora non è vero. Quindi è vero per il fatto che non esiste una terza possibilità. Scusa, se fosse non è ad essere non vero, perché tra non è ed è deve... Cioè... Perché ho... Scusa. Perché ho supposto per assurdo che sia falso, quindi vabbè, infatti siamo nella metà non assurdo. È dovrebbe essere vero, ma dato che anche non è, è non vero, allora dato che non c'è una terza possibilità, cioè una cosa non può essere al 50% vero o al 50% falsa, allora non è, è vera, ma non è, è appunto è, perché le negazioni si elidono. Allora, appunto, arriviamo proprio a questo punto, cioè diciamo che l'unico concetto non troppo intuitivo di questo procedimento è il passaggio finale. Ricordiamo però che bastoni! Calla, ho aggiunto già la saturazione al bastoniometro. Okay. Ora arrivano i bastoni, vai. I bastoni. Allora, ricordiamo però che la negazione della negazione di un'affermazione è l'affermazione stessa. Un esempio pratico è il seguente. Tutti i numeri dispari non sono divisibili per 2. E ci siete fino a qua. Dispari vuol dire non pari, ok? Sì. Di conseguenza dire che tutti i numeri non pari non sono divisibili. Aia, e calla, pesava abbastanza. Tutti i numeri. Non sono divisibili per 2 equivale a dire che tutti i numeri pari lo sono, ok? Ho un piccolo esempio di dimostrazione per assurdo, ma diciamo che la saltiamo perché fondamentalmente si dimostra che non esiste un numero razionale minimo tra quelli maggiore di 0. Ma la saltiamo perché hai guardato la mia faccia? No, forse per questioni di tempo magari la saltiamo. Scusa. Chiedo scusa. Va bene. O se no, se volete la faccio, però mai la saltiamo, non fa niente. Ce la fai in privato? La faccio in privato, la faccio in privato. Allora, ci sono ovviamente un'infinità di dimostrazioni per assurdo, molto più complesse di questa del numero razionale, ma ovviamente non le come non abbiamo affrontato questa semplice, non affronteremo nemmeno questa complicata. Concludiamo la parte matematica con un paio di citazioni significative. La prima è di Godfrey Harold Hardy, spero di averlo pronunciato bene, in Apologia di un matematico, che dice che la reductio ad absurdum, tanto amata da Euclide, è una delle più belle armi di un matematico. È un gambetto molto più raffinato di qualsiasi gambetto degli scacchi. Un giocatore di scacchi può offrire in sacrificio un pedone o anche qualche altro pezzo, ma il matematico offre la partita. Wow. Dopodiché David Dilbert, altro grandissimo matematico del Novecento, dice che privare un matematico della possibilità di fare dimostrazioni per assurdo sarebbe come legare le mani di un pugile dietro la schiena. Ma ci... Bella, pure questo. No, mi chiedo cosa ne avrebbe detto Gino Fano, il nostro matematico. Ah, infatti Gino Fano, esatto. Gino Fano niente. Gino Fano, tra l'altro, ha fatto qualche ricerca prima sul suo piano, vabbè, una roba... Piano alla Fano. Piano alla Fano, è una roba abbastanza complessa. Abbastanza assurda, spiegare, questo sì. Molto per assurdo. Vediamo nella prossima puntata. Beh, oddio, è un po' complicato, però ci proviamo. No. E allora, invece, ruotandoci verso l'ambito musicale, se si parla di assurdo, il cuore mi suggerisce di parlare dei Cardiacs, un gruppo che mi ha fatto scoprire, pensate voi, un mio ex compagno di basket, ciao Marco, detto per Capra Secca. Lui sì, grande batterista, non come sottoscritto. Allora, i Cardiacs sono stati sempre giù. Esatto. Allora, i Cardiacs sono stati un gruppo musicale inglese formatosi nel 1977, inizialmente con il nome di Cardiac Arrest, non so come si pronuncia, vabbè. Realizzarono 9 album in studio, più alcuni album dal vivo e numerosi singoli. Nel 1988 raggiunsero una discreta notorietà con il singolo Is This The Life. La band, mai scioltasi ufficialmente, interruppe di fatto la propria attività nel 2008, allorché il cantante e leader Tim Smith, purtroppo è il caso di dire nomen omen, venne ospedalizzato per un infarto e una conseguenza ipossia che gli lasciò una distonia permanente. Pur mentalmente lucido e malgrado una lunga e costante riabilitazione, Smith rimase non autosufficiente e incapace di parlare fino alla sua morte, avvenuta il 21 luglio del 2020, all'età di 59 anni. La musica dei Cardiacs è conosciuta per la capacità di fondere l'aggressività e la crudezza del punk rock con la complessità tecnica del progressive rock. Da qui appunto l'associazione con l'assurdo, vista la divergenza marcata tra i due generi. Il gruppo ha anche implementato elementi di altre correnti musicali come lo ska, la musica medievale, il folk e l'heavy metal. La rivista musicale Organ una volta scrisse che una canzone dei Cardiacs contiene più idee dell'intera carriera di molti musicisti. L'ampia combinazione di stili della loro musica è stata ricondotta al progressive rock o prog, al punto da portare i Cardiacs a essere etichettati come principali esponenti di questo stile musicale. Tim Smith ha rifiutato questa definizione definendo psichedelico semplicemente pop il loro stile. La prima formazione della band era un sestetto e un ottetto che implementava l'uso del sassofono, percussioni e tastiere. Dal 1991 in avanti la band diventa un quartetto rock centrato sull'uso di due chitarre. I Cardiacs impiegano una forte caratterizzazione vocale incentrata sulle qualità di Tim Smith con l'aggiunta di sessioni corali. Gli arrangiamenti sono stati quasi tutti scritti da Tim Smith, anche se con il contributo del resto della band, così come tutti i testi delle canzoni scritti in uno stile criptico e carico di nonsense, altra chiave di lettura per l'assurdo, rifiutandosi sempre di fornire una chiave di interpretazione precisa, preferendo mantenere un alone mistico e lasciando l'interpretazione agli ascoltatori. Smith ha usato anche frammenti di liriche, tra gli altri di William Blake, Charles Kingsley, William Shakespeare e Eliot. Dai Cardiacs ci ascoltiamo il brano Res. Now 100 celle Avengers. No, al... c'è il fonico grande. C'è stato uno scambio di fonici molto top, rocambolesco. Alle 18.40, accodandoci a Hotel Hilbert, rientriamo con il nord del nerd. Anche noi parleremo di numeri. Numeri. Ma che brava che sei! Hai visto? Grande. Ci sono stata attenta, perché anche io dico numeri, dico anche niente invece di niente. Vabbè, comunque, a parte questo, anche noi parleremo di numeri, ma di uno in particolare, il 42. Ma prima di cominciare, maestro, mi mandi la sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il mondo. Cento celle Avengers, è una rubrica adotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Grazie a Nord del Nerd, 600 celle Avengers. Quella che cammini. Buonasera, piccoli nerd. Questa è la puntata 42 del nostro programma radiofonico, quindi da bravi nerdacchioni dovreste aver già capito l'argomento di oggi, che non poteva che essere la guida galattica per gli autostoppisti. La guida galattica nasce proprio come trasmissione radiofonica, bel crossover con 100 celle Avengers, ragazzi, nel 1978, con 7 episodi a cui poi ne seguirono altri 5 nel 1980. Fu così popolare che ne seguì una serie televisiva, una fortunata serie di 5 libri, un film e persino un videogioco. Divenne un cult al punto tale che nel 2001 venne istituito il Towel Day, tuttora festeggiato il 25 maggio dagli appassionati in onore della saga e dell'asciugamano, descritto dalla guida galattica come la cosa più massicciamente utile che un autostoppista interstellare possa avere. La guida, citata nel libro, è in realtà un libro nel libro. Nel racconto i protagonisti fanno spesso riferimento a una specie di enciclopedia che fornisce loro suggerimenti su la vita, l'universo e tutto quanto, spesso bizzarri secondo il registro surreale del romanzo. Cito dal libro: in molte delle civiltà meno formaliste dell'orlo esterno est della galassia, la guida galattica per gli autostoppisti ha già soppiantato la grande enciclopedia galattica, diventando la depositaria di tutto il sapere e di tutta la scienza, perché, nonostante presenti alcune lacune e contenga molte notizie spurie, o se non altro alquanto imprecise, ha due importanti vantaggi rispetto alla più vecchia ed accademica enciclopedia. Uno, costa un po' meno. Due, ha stampate in copertina, grandi caratteri che ispirano fiducia, le parole niente pane. E nel caso in cui ci fosse un'inesattezza tra quanto riportato nella guida e la vita, ricordate che in realtà è la vita ad essere inesatta. La trama del racconto narra del povero Arthur Dent che scopre che alcune ruspe stanno per demolirgli casa per fare spazio a una nuova superstrada. Dopo pochi minuti gli abitanti della Terra scopriranno che il loro pianeta sta per avere lo stesso destino a causa di una flotta di astronavi che appaiono improvvisamente nel cielo sotto la guida del prostetnico Vogon Gels dell'ente galattico Viabilità Iperspazio. L'ho detto bene? Raga, prostetnico è quasi peggio di Wittgenstein. Grande. Arthur viene così salvato da un suo vecchio amico che si rivela essere un alieno originario della stella Betelgeuse e che lo trascina con sé chiedendo un passaggio ad una delle astronavi demolitrici, facendo letteralmente autostop spaziale. Durante la storia Arthur scoprirà che un gruppo di scienziati i cui componenti sono in realtà la proiezione paradimensionale di una razza di esseri super intelligenti esistenti su un piano dimensionale superiore aveva costruito Pensiero Profondo, il secondo più grande computer di tutti i tempi e tutti gli spazi, per ottenere la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Dopo un'elaborazione durata 7.5 milioni di anni, regà, mica bruscoli, il computer aveva fornito come responso unicamente 42, lasciando prima smarriti e poi sbigottiti i committenti dell'impresa, che non capendo la risposta capirono che il programma stava nel non aver definito la domanda, al che il computer aveva informato i ricercatori che avrebbe progettato un secondo computer più grande, incorporando entità viventi come parti della sua matrice computazionale affinché quest'ultimo potesse finalmente calcolare e dire loro quale fosse la domanda. Questo nuovo computer viene chiamato Terra. In qualche modo il lavoro di Adams fa da precursore al nostro presente, fa un po' pensare alle nuove intelligenze artificiali come ChatGPT di OpenAI, che fa, ragazzi, delle cose pazzesche. Ma come nel racconto di Adams, il problema non è tanto la risposta che l'AI può generare, quanto la domanda. Se vi capita, andate a giocare con ChatGPT, ragazzi, perché è veramente bizzarra. come raccontavo anche agli altri in redazione, per farvi capire, si tratta sostanzialmente di un sofisticato risponditore a cui puoi fare varie domande. Nel mio caso gli sottoposi il testo di una canzone che scrissi tempo fa e gli chiesi di generarle la musica per vedere se questa cosa era possibile. E sono rimasta veramente confusa dal risultato, perché non solo è riuscito a capire il senso della canzone, che era molto metaforico, ma a darmi linea melodica, accordi, come la musica doveva andare nei vari punti e perché dovesse andare in quel modo a seconda del senso della canzone e dei sentimenti che venivano espressi. Raga, io l'ho trovato veramente pazzesco. Giocateci. Tornando alla guida galattica, se vi state chiedendo se alla fine si sia capito perché la risposta fosse proprio 42, dopo anni di congetture dei fan, a un certo punto lo stesso Adams ha risposto. La risposta è molto semplice, parole sue. Era uno scherzo. Doveva essere un numero ordinario relativamente piccolo, e io scelsi quello. Rappresentazioni binarie, calcoli in base 13, monaci tibetani, tutte sciocchezze. Ero seduto sulla mia scrivania e, fissando il giardino, pensai: beh, 42 può andare. Lo scrissi a macchina e questo è quanto. Insomma, ragazzi, c'è una risposta quasi peggiore del finale di Lost. Esatto, stavo per dire la stessa cosa, incredibile. È vero. Cioè, lasciatemi stare Lost. Cioè, con sta leggerezza, questa detta me. Esatto, era tutta una... come lo so, era tutta una cazzata. Ma sono quelle cose che ti mettono quell'hype pazzesco immotivato, come quando te leggi la Divina Commedia e tonnellate di esegesi assurde, e a un certo punto ti fermi un attimo e pensi: ma niente, il buon Dante si era solo messo a pie pari a scrivere un libro in cui divertirsi a mettere all'inferno chi gli stava sull'anima e in paradiso chi gli stava simpatico. Cioè, voglio dire... Vabbè, dissacrato Dante. Comunque, e intelligenza artificiale a parte, prima di passare agli aspetti musicali della guida galattica, visto che parlavamo di numeri, passerei per un attimo la parola al nostro Fra di Hotel Hilbert, che ha sempre qualcosa da dire sull'argomento, vero? È vero, vero, verissimo. E faccio appunto il paio con il discorso della dimostrazione della mia rubrica precedentemente esposta, perché appunto in Guida Galattica per Autostoppisti c'è una dimostrazione, ed è una dimostrazione che do, diciamo, una piccola introduzione di come ci si arriva, e ci si arriva tramite il pesce di Babele. Il pesce di Babele, o Babelfish nella versione originale, è un traduttore universale biologico, ha le sembianze di un piccolo pesce giallo, e quando viene inserito nel condotto uditivo permette di comprendere istantaneamente quanto viene detto in qualsiasi lingua dell'universo. Ah sì, bellissimo. Il nome deriva dalla biblica torre di Babele, durante la cui costruzione, secondo il racconto biblico, gli uomini parlavano tutti la medesima lingua. Il pesce di Babele, nella finzione umoristica della Guida Galattica per Autostoppisti, sarebbe la vera prova della non esistenza di Dio. E cito dal testo della guida: ora, è così bizzarramente improbabile che una cosa straordinariamente utile come il pesce Babele si sia evoluta per puro caso, che alcuni pensatori sono arrivati a vedere in ciò la prova finale e lampante della non esistenza di Dio. Le loro argomentazioni seguono pressappoco questo schema. Mi rifiuto di dimostrare che esisto, dice Dio, perché la dimostrazione è una negazione della fede, e senza fede io non sono niente. Ma, dice l'uomo, il pesce Babele è una chiara dimostrazione involontaria della tua esistenza, no? Non avrebbe mai potuto evolversi per puro caso. Esso dimostra che tu esisti, e dunque, grazie a questa dimostrazione, tu, per via di quanto tu stesso asserisci, a proposito delle dimostrazioni, non esisti. Quod erat demonstrandum. Povero me, dice Dio, non ci avevo pensato, e sparisce immediatamente in una nuvoletta di logica. Meraviglioso, stupendo. Ho apprezzato tantissimo la maniera educata con cui hai descritto il Babelfish, perché nell'originale, sul libro di Adams, questa cosa viene detta come, cioè, il funzionamento del pesce è, cito, la conseguenza pratica è che se ve ne ficcate uno nell'orecchio comprenderete istantaneamente qualunque cosa in qualsiasi lingua. La cosa buffa è che la Guida Galattica è talmente famosa e, diciamo, è diventato un mega cult, per cui molte cose reali poi hanno preso il nome da cose del libro. Per esempio il Babelfish, il pesce Babele di cui parlava Francesco, è diventato il nome del vecchio traduttore di Altavista, non so se ve lo ricordate, quello di Yahoo, che è soppiantato male da Google. E, addirittura anche un computer scacchistico della IBM venne chiamato Deep Thought, cioè pensiero profondo, e fu il primo computer capace di battere un gran maestro internazionale di scacchi, nominato in nome del computer citato nella Guida Galattica. Tornando a parlare della Guida Galattica e del film in particolare, a parte il protagonista Martin Freeman, amatissimo Bilbo nello Hobbit e Watson di Sherlock, a me sinceramente il film non è piaciuto molto, come direbbe Dante. Dai, dillo maestro, che parlo sempre delle cose che mi fanno schifo in realtà. No, vabbè, però dirlo così devo... Vabbè, non era granché, cioè bellissimo il suo otto romanzo, tutto quanto, però il film era un po' moscetto. Esatto, era un po' moscetto. Potevano fare meglio, bene, dai. Non vedemmelo, insomma. Più o meno, sì. 42 era una sola, il libro, il film ti è piaciuto. Dicono sia più bella la vecchia serie. Comunque, che io colpevolmente non ho mai visto. Alla puntata 42 di 100 ce l'ha vinto. Esatto, vabbè. Poi, comunque il libro è molto bello, leggete il libro. Per quanto riguarda la colonna sonora del film, che è udibile nella pellicola durante la prima presentazione ufficiale del notevolissimo libro La Guida Galattica per Autostoppisti, appena dopo le sequenze di demolizione del pianeta Terra, è ripresa dalla sigla d'apertura della serie televisiva dell'81, a sua volta una riduzione dell'originale tema che sentite in sottofondo, Journey of the Sorcerer, composto dagli Eagles, e in seguito usato per il serial radiofonico per scelta dello stesso Adams, che lo riteneva adatto. Ricordiamo che il film è comunque uscito postumo, 4 anni dopo la morte di Adams, seppur realizzato secondo una sua sceneggiatura. Adams stesso fu di per sé un ottimo musicista e ricevette la sua prima chitarra per Mancini nel 64 dopo aver studiato pianoforte nel 60 con lo stesso insegnante di Paul Wickens, il pianista che faceva parte della Paul McCartney Band. Quando morì... grazie. Si è attivata Virginia. Partita. Io? Che ho fatto io? Perché quando si dice Paul McCartney, Virginia si triggera... Quando morì, Adams aveva una collezione di ben 24 chitarre per Mancini, una per quasi ogni giorno del mese. Oltre a questa conoscenza, Adams era anche amico stretto del chitarrista David Gilmour e per il suo 42esimo compleanno, rega sempre 42, fece un'apparizione come ospite di uno dei concerti finali dei Pink Floyd, tenutosi all'Urquhart di Londra la sera del 28 ottobre 94, suonando la chitarra in Brain Damage e in Eclipse. Adams, pensate, diede il titolo definitivo all'album dei Pink Floyd, The Division Bell, traendo le parole dal testo stesso del brano I Oops, contenuto nel disco. Beh, piccoli nerd, vi lascio con un pezzo dei Coldplay, sì, sembra che non c'entra niente, però c'entra perché anche loro onorarono la Guida Galattica con un loro pezzo dell'album Viva la Vita, or Death, and All His Friends. E quindi sentiamo Coldplay, 42. Those who are dead. I'm not dead, they're just living in my head. And since I fell for that spell, I am living there as well. Oh, time is so short, and I'm sure there must be something more. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Oh, and since I fell for that spell, Radio Forte, 100 Celle Avengers, rientriamo in diretta negli ultimi 5 minuti di questa incredibile 42esima puntata piena di alti, bassi, numeri, cose che ci hanno Confuso, ammetto un po' confuso, arrivo ma a questo piaciuto, punto che sono tanto. Veramente provato, confuso e felice. Non fare così. Felice, ma appunto in quel momento che uno si lamenta, quel momento della giornata che comincia a sfogarti, chiedo scusa. E qual è il momento per un fonico in cui si sfoga? Il momento della rubrica Traumi Fonici. Sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Sentite l'atmosfera competitiva. Esatto, è quello che pensavate, è quello che sta per succedere. No, non è vero. XXXX. Esattamente, con la qualità sonora di qui sopra andiamo a sentire questa sigla che ci dice che Traumi Fonici ci ha portato a Milano, esattamente a Sago, per la finale di X Factor. La finale di X Factor si svolge dopo la semifinale di X Factor, quindi intelligentemente, siccome X Factor si svolge proprio in un teatro che è accanto a quello che si poi conosce come Forum di Assago, quindi viene praticamente smontato tutto l'ambaradan alla vigilia della finale e rimontato in un teatro che è pochi metri più in là. Tu dirai, cioè, è quella distanza che ti fa dire quasi magnava, ma a portarsi alla spinta? No, ve lo dico, è come quando vai insomma a Porta di Roma e devi arrivare da una parte all'altra, cioè, ma moltiplicato per, insomma, non si può fare. Quindi noi siamo arrivati allo smontaggio della semifinale che poi si trasformava nel montaggio della finale. Questo perché lo dico? Perché tutto il lavoro che si è svolto in quella giornata poi ha portato a un check-in notturno. Sentite questa musica che per gli amanti del cinema che colgono la citazione porta in un albergo. Check-in è un albergo. Che cosa è successo? L'allestitore normalmente viene a seconda di quanto è bistrattato messo in doppia perché spesso non c'è il budget. Quindi io sapevo di dover andare in stanza con tale Davide Zingarello. Ma aspetta, che ora erano? Io non ho capito, era notte, lo so che mi sta interrompendo, c'è un po' di tempo, mannaggia. Allora, avevo detto che era tutto un check-in notturno perché lo smontaggio e il rimontaggio è avvenuto di notte, quindi siamo alle 5:30, ma c'è sempre un custode dell'albergo. Il custode dell'albergo mi accoglie, io devo stare in stanza, ripeto, con tale Davide Zingarello, chiedo scusa se faccio il nome, ma è parte integrante del racconto. Vai. E quindi arrivo lì, dico ok, sono io, dovrebbe esserci una stanza. No, non c'è. Aspetti, guardi se sta a nome di Zingarello. Sì, c'è, ok. Allora, mi scusi, però io non vorrei svegliare il collega che non ho neanche conosciuto quest'oggi. Potrebbe darmi un duplicato della chiave? Sì, ma certo, mi dà il duplicato della chiave e io salgo su, ting, 11° piano, arrivo alla stanza e ripeto che ho fatto uno smontaggio di tutto un teatro che ospita la semifinale e poi diventa la finale di X Factor, quindi ero sudato, facevo schifo e volevo solo dormire. Entro comunque per non disturbare il collega, comunque facciamo sempre lo stesso lavoro ma con turni, insomma, entro sgattaiolo dentro al bagno e niente, cerco di prendere le distanze, capire, vedo delle belle giacche, delle cravatte, cioè un vestiario che non si addice troppo agli operai di X Factor e non ho tempo di fare queste elucubrazioni che scito dalla stanza, vedo questa figura, questa sagoma sul letto, seduto, rigido, nel buio e mi dice: chi sei? Oddio. Come sei entrato? No. E io gli dico: tutto, ma come, io c'ho la chiave, ma avevo la lucetta sulla testa, tipo, che ne so, Ultron quando va dal padre di Ritorno al Futuro a ordinargli di... Ok. E gli dico: no, la chiave, ma tu non sei Zingarello? No, al suo no onesto, sincero e anche un po' impaurito, io prendo un... capisco che è successa una cosa che non pensavo fosse possibile al giorno d'oggi. Cioè, c'è qualcuno che ha preso una toppa che, se l'avessi presa nel mio mestiere, non so come l'avrei tradotta. Cioè, comunque, come albergatore, la cosa peggiore che puoi fare è mandare qualcuno dentro la stanza di un altro. Ma non uno della ditta, uno che non c'entrava proprio niente. Cioè, io credo che... X Factor neanche magari se lo vedeva, ma che soprattutto poteva essere chiunque. Regà, là ci vive la gente, ci stavano un sacco di guardie, dei criminali, cioè era un albergo molto grande. Quindi è andata bene che c'era uno impaurito. Tuttavia, anche io mi sono, cioè, vorrei richiamare appunto l'attenzione su come mi sono sentito io. E sul fatto che, però, comunque, grazie a questa cosa, c'è la sigla che ci dice che comunque, vabbè, siamo andati lunghi, ma noi abbiamo deciso che andiamo in gamba tesa, l'avevamo già detto che andavamo in gamba tesa, e, però vabbè, possiamo sempre metterci un sottofondo senza il sottofondo. Vabbè, ho avuto una tripla, applauso per la tripla. Grande. Perché poi questi disguidi portano a avere comunque almeno... per riparare alla cosa un po' di rispetto. Vabbè, ma chi era il tizio che hai terrorizzato? L'hai scoperto? Non lo sapremo mai. Io so soltanto è il tuo amico, il tuo collega? Ho pensato che lo potevo incontrare poi nei giorni a venire, ma non è mai successo questo. E effettivamente... effettivamente lo scopriremo forse alla prossima edizione, che magari quello vive là. Metto un salutiamo Zingarello. Esatto. Salutiamo Zingarello, che comunque dire che, cioè, è sembrato a lui magari che era un modo di dire: come sei Zingarello, come di uno che entra nelle stanze come gli pare, dove gli pare. Invece no, era il cognome del mio compagno di stanza. Risata. Che ridere. Con questo mandiamo la sigla. Con questo io, cioè, vi prenderei a questo punto un altro minuto soltanto per dirvi che legato a questa esperienza c'è stata anche un'esperienza che mi porta a parlare alla maestra Viola. Quindi ora io senza indugio metto la sigla. Si parla di testi delle canzoni. Scendo tutto al bar, sembro tutto anche. Ho speso due campasi, una sca. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. O prendo mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Faccia gira dal contro, giro poi quando va. Come parla? Sole, cuore, amore. Parole, parole, parole. Una parola ancora. Siamo tutti in arresto. Allora, questi sono i Tropea. Io sono andato a Milano con un lavaggio del cervello fattomi dalla maestra Viola. Cioè, avevo bisogno di attaccarmi a qualcosa prima, per superare X Factor. E questi erano finalisti. E me li sosteneva la maestra Viola. Amore molesto. Ora, questa fa parte un po' della mia campagna Uccidiamoli finché sono piccoli. Aspetta. Cioè, comunque è una band che ha avuto il suo trampolino con X Factor, per cui non c'è problema se adesso ne parlo leggermente, ma è calla. C'è la borsa di Tropea. Vabbè, basta. Vabbè. Come parla? Vabbè, raga. Come parla? Io non sono un sex toy. Le parole sono importanti! A proposito delle parole sono importanti, un cringe inferno. Ma non è quello il problema, raga. Non è quello. Io vi richiamo l'attenzione su. Cioè, non è il sex toy, non è la drag queen, anche se non capisco il legame. Non è. Ma è quello che arriva adesso. Cioè, quando dico l'urgenza del poeta, non è che, cioè, supera qualsiasi cosa. Chiedo scusa, approfitto per dire che erano caldeggiati da Ambra, erano portati. Quindi immagino lei che gli diceva: grandi, grandi, questa cosa nel testo. E la droga esigente. Allora, non si può fare e la droga è esigente e la gente si droga. Cioè, no. Non vale tutto. Io lo dico perché comunque, se poi ci abituiamo a questo, io, cioè, un po' invidia, ammetto che un po' invidia avrei voluto inventare io delle... Non è neanche una rima, è un'assonanza di una simmetria di... è una cagata che immagino. Allora, veramente non l'hai convinta per niente. No, mi piace proprio. Viola ancora gli piace. No, io questo testo effettivamente poi ne avevamo già parlato, cioè, proprio quei momenti in cui fanno i brainstorming, no? E quindi che ne so. Sì. Allora, se tu dici una cosa in romano, quella remuscia già fa ridere. Per esempio, dici firma Giorgio. Giorgio firma se tagliano così, poi gli viene in mente la cosa. Come avete pensato di farla questa scena? Grosse cose, cioè. La prima è un piccolo gioco di parole che però pensa, abbiamo bocciato, che io gli dico a un certo punto: nota, io non firmo. Nota io non firmo. Cioè, stiamo a sti livelli. Però questa non la facciamo, l'abbiamo bocciata, per farti capire a che livello stiamo. siamo a sti livelli, quindi vabbè, me volevo sfogare, scusate, ho preso 3 minuti, 4 minuti, ma effettivamente vabbè, ti devo ce lo potevamo permettere, visto che magari non torneremo più, proprio per colpa di questo lavoro anche che ci porta, via. Comunque grazie Viola che mi hai fatto conoscere i Tropea. No ragazzi, con questi bisogna arrivare alle mani skin e siamo ai saluti amori molesti. Però senti, allora sentitevi le cose di prima, non questa, dai. Sì. Le cose sono uscite adesso, com'è possibile che hanno una carriera prima? No, sì, ce l'hanno. Io sono andata ad ascoltare la primavera scorsa al Largo Venue. Va bene, a questo punto io posso dire che vi voglio bene, che noi ci sentiremo, spero, fra due settimane. Che questa puntata è in podcast sul sito fortebenestino.net, alla sezione radio. Detto così è più figo, alla sezione radio. Detto ciò, sigla! Ciao amici! Ciao! Ciao!